In che modo però? Beneficio per esempio per le aziende, perché se io vado sul sito votazienda.it e sputtano letteralmente la mia azienda, mettiamo Radio 24, dico che si lavora malissimo, si sta male, ti trattano come un cane, che non è vero, però insomma è un'ipotesi. In che modo l'azienda può beneficiare di tutto questo, Roberto, invece? Beh, allora, adesso stai partendo dal presupposto che le recensioni siano necessariamente negative, ma molto spesso, diciamo che l'esperienza fatta fino adesso, molte sono invece positive, le recensioni ricevute. Comunque diciamo che da tutte le opinioni l'azienda può capire in quali aree intervenire e migliorare l'ambiente di lavoro per i suoi dipendenti, che quindi chiaramente possono poi essere più stimolati a lavorare in maniera produttiva e in maniera innovativa, magari anche, quindi dare degli stimoli maggiori. Ecco, facciamo qualche esempio. Chi va adesso sul sito votazienda.it trova, per esempio, tra le aziende più viste di recente, sono Luxottica, Sianet, Sanofi Aventis, Amica Chips, Coop Service, io sto leggendo, Finantix e anche altre. Quali sono i criteri che poi ci si trova di fronte chi vuol fare la recensione, no? Per dare il proprio parere, il proprio giudizio, il proprio rating, allora, possiamo anche dire, sul posto di lavoro? Allora, la piattaforma offre una serie di parametri ai quali assegnare un voto da 1 a 10, parametri che sono ad esempio il rapporto con i colleghi, i superiori, lo stipendio, le opportunità di formazione e via dicendo. Poi offre chiaramente anche la possibilità di esprimere una propria opinione testuale, nel quale uscire appunto da quelli che sono i parametri che vengono proposti e proporre delle proposte di miglioramento per dire appunto cosa c'è che va bene e cosa invece si può un attimo intervenire. A questo punto io vado sul sito, lascio una recensione, magari negativa. Sì. L'azienda può andare e vedere e prendere spunto anche per correggersi, però quali filtri mettete di fronte per esempio a recensioni palesemente finte? Non so, magari al contrario, io sono un'azienda, voglio farmi una buona pubblicità, sì, vado sul vostro sito, mi registro e dico che qua tutto è bellissimo. Sì, allora chiaramente le recensioni sono anonime per tutelare la privacy dei lavoratori, e questo diciamo è inevitabile, però mettiamo in atto tutta una serie di soluzioni per un attimo contingentare questo pericolo di recensioni false. Innanzitutto le recensioni sono monitorate prima di essere rese pubbliche, quindi ad esempio se ci sono degli aspetti riservati, delle informazioni riservate dell'azienda, non vengono pubblicate queste recensioni. E una volta rese pubbliche c'è appunto la possibilità per tutti gli utenti della piattaforma di dare una propria opinione se secondo loro la recensione è veritiera o invece è inventata. Quindi c'è un approccio dal basso per scovare le recensioni, quelle più non realistiche. Insomma, si sa che c'è anche un mercato delle finte recensioni, citare il caso di prima su TripAdvisor, ma anche su altri siti, e vi auguro che diventiate altrettanto grandi, anche voi potrebbe accadervi. Quante recensioni? Siete partiti da poco, per cui magari i numeri saranno ancora iniziali, però come stanno andando i primi passi? Allora chiaramente all'inizio c'è un po' uno scoglio psicologico da superare quando non ci sono molte recensioni, però adesso che il numero sta crescendo, diciamo che la velocità di crescita delle recensioni è buona, insomma. Avete coperto un po' tutta Italia oppure solo magari il nord Italia con le grandi aziende tipo Milano eccetera? No, il focus è tutta l'Italia, e le aziende sono categorizzate all'interno del settore in cui operano e suddivise appunto per regioni e province, anche per facilitare chi è alla ricerca di un'azienda. Poi comunque c'è la possibilità per gli utenti di inserire nuove aziende nel caso l'azienda per la quale lavorano o hanno lavorato in passato non è ancora inserita. E allora insomma, se vi siete incuriositi, votazienda.it, il sottotitolo è Vota perché vali, una iniziativa che consente alle persone di sfogarsi, in alcuni casi invece di dare delle recensioni costruttive, e alle aziende, come avete sentito, anche di migliorare, di intervenire sulla propria reputazione. Una cosa importante è che può, Roberto, questo sì, anche attirare magari qualche interesse in più. Io sono magari una piccola azienda e posso avere interesse a farmi fare delle recensioni positive, perché questo può attirare attenzione su di me. Sì, esatto. L'idea è quello di offrire alle aziende la possibilità anche poi di interagire con chi esprime il voto, quindi instaurare un dialogo. però appunto l'idea è che, siccome per le piccole aziende è molto difficile a volte ottenere visibilità, anche se sono magari delle piccole aziende di eccellenza, la vostra azienda vuole appunto offrire la possibilità a tutti di avere la giusta visibilità verso il mondo del lavoro, insomma, verso i lavoratori qualificati. E va bene, allora grazie, in bocca al lupo e grazie intanto per essere stati con noi, Roberto grazie Dallongo. Noi ci fermiamo per una breve pausa, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Adesso una bella storia per chi ama il cinema, un progetto, una piattaforma web, come sempre più spesso accade, il web arriva a toglierci dai guai, per portare la gente al cinema, nelle sale, ma scegliendosi sostanzialmente il film come ci pare e piace, proprio su questa piattaforma. Salutiamo Antonello Centomani, che è ideatore, tra gli ideatori di questa iniziativa. Antonello, buongiorno. Grazie. Come salve. La possiamo chiamare, perché il nome è una sigla, è sì. Difficile da pronunciare, MIFI. Sì, MIFI, sul sito internet MIFI.com abbiamo per il momento una landing page, sì. E è un acronimo che sta per My Favorite Films of the Year. E che, perché c'è anche l'idea di fare un po' un concorso tramite la rete che sceglierà il film preferito dell'anno. Però questa è una parte del progetto, un progetto che adesso tu, che sei un esperto di cinema perché per 10 anni hai lavorato in una sala cinematografica, se ho capito bene. Sì, esatto. Mm-hmm. Fra l'altro stai conducendo un dottorato allo IULM. Tra le altre cose, e stai portando in Italia insieme ad altre persone questa cosa che all'estero c'è già, come sempre, forse in America? Esattamente, sì. Noi appunto l'abbiamo ideato già un paio di anni fa, e un paio di anni fa stava nascendo contemporaneamente in America, ci sono già due piattaforme, in Europa ce ne sono dall'anno scorso altre due, più una olandese, tre, e noi ci vorremmo proporre come piattaforma italiana che di cinema on demand, cioè cinema su richiesta, ma il cinema quello nella sala, quello vero, perché casa. Uno potrebbe pensare subito al classico pay per view, cioè sei a casa, paghi 4 euro, 5 euro e vedi il film. Qua l'idea è proprio quella invece di rivitalizzare il cinema, perché c'è anche un po' questa questione qua, cioè le nuove tecnologie, l'era digitale. Come conseguenza, una delle conseguenze è anche quella di forse potenzialmente indebolire un po' anche la frequentazione del cinema, no? Certo, però allo stesso modo la può anche rafforzare nuovamente, e quindi appunto, se da un lato il consumo su diversi dispositivi mobile, online e quant'altro ha in qualche modo un po' indebolito il consumo in sala, oggi però c'è un ritorno anche alle cose fisiche, e quindi come dire, secondo anche un'esperienza un po' vintage, possiamo dirlo, ritorno quindi anche, noi vogliamo auspicare un ritorno alle sale, che negli ultimi anni abbiamo visto chiudere, però siamo convinti che possono riaprire. Infatti ci tengo subito a dirlo che tra l'altro il progetto sia appunto MIFI, poi si è recentemente però unito il mese scorso con un progetto molto simile, che è quello di Cinematic, proposto dalla Scheggia, un'associazione culturale presente su Milano da 10 anni, sì. E che avevano ci siamo conosciuti al premio Che Fare, dove siamo stati candidati ambedue, e quindi ci siamo conosciuti. Quello delle start-up, no? Delle nuove iniziative imprenditoriali, esatto, culturali di una nota banca, sì. Esatto, e promosso dall'associazione Doppio Zero, sì. E altri, e quindi ci siamo conosciuti, anche piaciuti e fusi, e anche perché e quindi, insomma, l'unione può fare la forza. Insomma, l'idea sostanzialmente è quella di fare questa piattaforma, che ancora non c'è ma ci sarà tra poco, sulla quale io posso andare e scegliere un film di di circuiti minori, ovviamente, perché non parliamo dei film che già sono proiettati nei cinema, perché altrimenti non avrebbe senso, altri film di altri circuiti, magari più per appassionati, Esatto. Propongo a amici e parenti di andarlo a vedere nella sala X il giorno Y, sì, all'ora Z. A quel, esatto, punto, se facciamo massa, andiamo, si va e si va a vedere il film. Cioè, è un modo per tornare al cinema, però scegliendosi il film e valorizzare anche delle produzioni, diciamo, di circuiti alternativi. Assolutamente, ma neanche poi tanto alternative, perché la lunga coda del cinema, come tante altre lunghe code, è piena di opere, insomma, eccezionali, che però non hanno spazio. Ancor di più con la digitalizzazione delle sale, questo spazio andrà in qualche modo ridistribuito, quindi delle piattaforme come la nostra sarà, noi speriamo, crediamo, indispensabile per dare spazio a, appunto, a opere nemmeno tanto indipendenti, ma che semplicemente hanno bisogno di essere scelte. Quindi, se sono le persone a sceglierlo, chiaramente il mercato, come dire, deve inginocchiarsi, tra virgolette, e vuole anche servire poi le richieste del pubblico. Certo. Tutto sta nel ribaltamento che oggi le nuove tecnologie, le nuove reti sociali permettono. E appunto questo ribaltamento che potrebbe anche portare a un nuovo interesse proprio per la fruizione al cinema dei film. Noi vorremmo essere lì, Antonello, quando la piattaforma sarà operativa, quando la lancerete. Mi raccomando, perché vi vogliamo tenere a battesimo, ci teniamo, è un'iniziativa che potenzialmente potrebbe anche rivoluzionare, che so, butto lì, il cinema dei prossimi anni. Staremo a vedere. A presto allora, intanto. Grazie mille a voi, a presto. E per tenere sott'occhio l'iniziativa, myfim, myffy.com. È tutto per la puntata di oggi, ci fermiamo qua. Noi intanto però vi aspettiamo, come sempre, con le vostre segnalazioni su Facebook, Si può fare trattino Radio 24, su Twitter Si può fare 24 e il mio chiocciola Ale Maurizi. Io ringrazio Valentina Magri in redazione, Andrea Piana che ha scritto insieme a me questa puntata del programma, Fabio Cantadori in regia quest'oggi. Noi ci risentiamo sabato prossimo, buon weekend a tutti.